Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. La carrozza ripartì rapidamente e il povero piccolo visconte Lord Ballington rimase solo nella brughiera proprio mentre cominciava a spuntare il giorno. Era molto spaventato e non c'era da stupirsene. Pensò di correre dietro la carrozza, ma gli mancava il coraggio e anche la forza nelle piccole gambe, e così sedette su una roccia e scoppiò in lacrime di rabbia. Fu così che Ulick Brady fece quello che io chiamo un matrimonio sabino. Quando ci fermammo con i due testimoni alla casetta dove dovevano aver luogo le nozze, il cappellano Mr. Hunt subito si rifiutò di prestarsi, ma lo sfortunato precettore si vide puntare una pistola alla testa e gli fu detto, tra terribili bestemmie, che gli avrebbero fatto saltare quelle sue miserabili cervella, al che lui acconsentì a celebrare il rito. Molto probabilmente l'adorabile Amelia fu convinta in modo simile, ma di questo io non so nulla, perché non appena fatta scendere la comitiva nuziale, io me ne tornai in città con il cocchiere ed ebbi la soddisfazione di trovare che Fritz, il mio tedesco, era arrivato prima di me nella mia carrozza e con i miei vestiti. Ah, al ballo mascherato nessuno aveva sospettato di lui e lui aveva eseguito a puntino i miei ordini. Il povero Mr. Hunt fece ritorno il giorno dopo in uno stato pietoso e mantenne il silenzio sulla sua parte nelle vicende della nottata. Aveva una sua tetra storia, secondo cui si era ubriacato, era stato aggredito, legato e lasciato in mezzo alla strada, dove l'aveva poi raccolto un carretto che, portando viveri a Dublino, si era imbattuto in lui, inerme e disperato. Non c'era alcun modo di accollarmi una qualunque responsabilità nella congiura. Il piccolo Ballington, che aveva trovato anche lui il modo di tornare a casa, non era assolutamente in grado di identificarmi. Ma Lady Lyndon sapeva che io c'entravo nel complotto, perché il giorno dopo incontrai sua signoria Lyndon che si precipitava al castello. Tutta la città era già sottosopra per il rapimento, e la salutai con un sorriso così diabolico che lei capì subito, e io ne sono certo, che ero coinvolto in quel piano audace e ingegnoso. In questo modo ripagai Ulick Brady del caro sostegno che mi aveva dato nei miei primi anni, ed ebbi anche la soddisfazione di rinverdire i caduti allori di un ramo così meritevole della mia famiglia. Ulick portò la sua sposa a Wicklow, dove visse con lei in assoluto isolamento, finché non si calmarono le acque, mentre i Killjoy frugavano inutilmente in ogni angolo per scoprire il suo rifugio. Per qualche tempo non seppero neppure chi fosse il fortunato che aveva rapito l'ereditiera. Fu solo quando, alcune settimane dopo, lei scrisse una lettera firmandosi Amelia Brady e dicendosi perfettamente felice della sua nuova condizione e rivelando anche che a celebrare le nozze era stato il cappellano di Lady Lyndon, Mr. Hunt, che si seppe tutta la verità. E allora il mio degno amico confessò il suo ruolo nella faccenda. Dato che la sua indulgente padrona non lo licenziò in conseguenza di questo affare, tutti insistettero a supporre che la povera Lady Lyndon fosse a conoscenza del complotto e la storia dell'appassionato interesse di sua signoria Lyndon nei miei riguardi ne trasse sempre maggior credito. Potete star certi che non tardai ad approfittare di queste voci. Tutti pensavano che io avessi avuto parte nel matrimonio dei Brady, anche se nessuno poteva provarlo. Tutti pensavono che io godessi del favore della contessa vedova, anche se nessuno poteva affermare che io lo dicessi. Ma c'è una maniera di provare una cosa anche mentre la si smentisce. E io ne ridevo e scherzavo in modo così calcolato che tutti gli uomini presero a congratularsi con me per la mia bella fortuna e a considerarmi il fidanzato ufficiale della più grande ereditiera del regno. I giornali raccolsero la voce e le amiche di Lady Lyndon la redarguirono sdegnate, e perfino le riviste e i periodici inglesi, che a quell'epoca erano sempre a caccia di scandali, parlarono della faccenda, insinuando che una vedova bellissima e raffinata, con un titolo nobiliare e le più ricche proprietà dei due regni, stava per concedere la sua mano a un giovane gentiluomo alla moda, di alta nascita, che si era distinto al servizio di Sua Maestà, il re di Prussia. Non dirò chi fosse l'autore di questi trafiletti, né in che modo due ritratti, uno mio intitolato L'Irlandese Prussiano e l'altro di Lady Lyndon come la Contessa di Efeso, giungessero ad apparire sul Town and Country Magazine, che veniva pubblicato a Londra e conteneva tutti i pettegolezzi mondani del momento. Lady Lyndon rimase così stupefatta, così atterrita dalla mia saldissima presa su di lei, che decise di lasciare il paese. Avevo una casa in Berkeley Square, a Londra, ancora più splendida di quella che possedeva a Dublino. Sapendo che vi sarebbe andata, la precedetti nella capitale inglese e presi in affitto un bel alloggio a Hill Street, molto vicino a lei. Nella casa di Londra mi procurai il servizio di informazioni che già avevo a Dublino. C'era lì lo stesso portiere fedele a darmi tutti i ragguagli che mi occorrevano. Gli promisi di triplicare il suo salario non appena si fosse verificato un certo evento. Mi conquistai anche la dama di compagnia di Lady Lyndon con un dono di 100 guinee in contanti e la promessa di altre 2000 quando mi fossi sposato, e ottenni i favori della sua cameriera favorita con una ricompensa altrettanto lauta. A Londra la mia reputazione mi aveva preceduto ed era già tanto solida che moltissime persone del bel mondo erano ansiose di avermi ai loro ricevimenti. Nel tran tran di quest'epoca non abbiamo più idea di quanto fosse vivace e splendida la Londra di allora, che passione per il gioco dominava giovani e vecchi, maschi e femmine, quante migliaia di sterline andavano vinte e perdute in una notte, e che bellezze c'erano, così brillanti, allegre, esuberanti. Tutti erano deliziosamente depravati. Era di moda farsi rapire. Ah, che piacere era la vita allora, e che fortuna per chi aveva ardore, giovinezza, denaro, e quella vita poteva viverla. Lo svolgimento di una storia d'amore è noioso per tutti, tranne per i diretti interessati. Perciò lascio questo soggetto ai romanzieri squattrinati e alle signorinelle di collegio per cui scrivono. Non intendo seguire passo passo le vicende del mio corteggiamento, né narrare tutte le difficoltà che io dovetti affrontare o i mezzi con cui le superai trionfalmente. Basti dire che queste difficoltà le vinsi tutte. Io sono dello stesso parere di un mio ingegnoso amico, il defunto Mr. Wilkes. Questi ostacoli non contano nulla sul cammino di un uomo di carattere, uno capace, se non gli mancano abilità e perseveranza, di convertire l'indifferenza e l'avversione in vero amore. Quando terminò il periodo di lutto della contessa Lyndon, avevo ormai trovato modo di farmi ricevere in casa sua. Lì avevo messo le sue donne a parlare continuamente in mio favore, a celebrare la mia vasta influenza, a dilungarsi sulla mia buona fama, a esaltare i miei successi e la mia popolarità nel bel mondo. E poi i miei migliori alleati, nel seguito di quel dolce corteggiamento, furono proprio i nobili parenti della contessa, che certo non sapevano che bel servizio mi rendessero. Li supplico di accettare i miei più sentiti ringraziamenti per gli insulti di cui mi coprirono allora. Ma non ho altro che disprezzo per le odiose calunnie con cui mi hanno perseguitato più tardi. Alla testa di questi amabili personaggi stava la marchesa di Tiptoff, madre del giovane gentiluomo che a Dublino avevo punito per la sua sfrontatezza. Quella vecchia strega andò a trovare la contessa quando questa era appena arrivata a Londra e le fece omaggio di una tale valanga di ingiurie per avermi dato corda da favorire la mia causa, ne sono certo, più di quanto non avrebbero potuto fare 6 mesi di corte assidua o una mezza dozzina di duelli vittoriosi con i miei rivali. Inutilmente la povera Lady Lyndon si dichiarò del tutto innocente e giurò di non avermi mai incoraggiato. «Mai incoraggiato?» strillò quell'arpia. «Non avete forse incoraggiato quel miserabile a Spa prima ancora che morisse Sir Charles? Non avete dato in moglie una vostra pupilla a uno dei cugini spiantati di questo libertino? Quando è partito per l'Inghilterra, non l'avete seguito il giorno dopo come un'invasata? Non ha preso alloggio quasi alla vostra porta? E questo non lo chiamate incoraggiarlo? Vergogna, signora! Vergogna! Avreste potuto sposare mio figlio, il mio caro e nobile George, ma lui non ha voluto interferire con la vostra vergognosa passione per quello straccione arricchito che per causa vostra ha cercato di assassinarlo. L'unico consiglio che posso dare a vostra signoria è questo: di rendere ufficiale il legame che avete contratto con quell'ignobile avventuriero, di dar forza di legge a questa unione che esiste già di fatto ed è contraria sia alla decenza che alla religione, e di risparmiare alla vostra famiglia e a vostro figlio la vergogna della vostra attuale condotta. Così, grazie alla saggia influenza di Milady Tiptoff, i familiari e gli amici intimi della contessa di Lyndon vennero convinti a evitare la sua compagnia. Perfino quando Lady Lyndon si recò a corte, la più augusta signora del regno la ricevette con una freddezza così marcata che la povera vedova se ne tornò a casa e si mise a letto per l'esasperazione. E potrei dire che in questo modo il trono stesso divenne un agente attivo nel far progredire la mia corte, cioè nel dar sostegno ai piani di un povero soldato di ventura irlandese. Così il fato muove le sue leve, grandi o piccole, e con mezzi su cui essi non hanno alcun controllo si compiono i destini degli uomini e delle donne. Un giorno che Lady Lyndon si lamentava del suo destino e del mio modo infame di trattarla, si compiaceva di dire così, Mrs. Bridget rispose: «Perché vostra signoria non scrive a questo giovane gentiluomo per dirgli del male che vi sta arrecando? Fate appello ai suoi sentimenti, che sono ottimi a quanto ho sentito dire. Tutta la città risuona di racconti sul suo bel carattere e sulla sua generosità. E imploratelo di desistere da un intento che dà tanto dolore alla migliore delle dame. Scrivetegli, signora. So che il vostro stile è così elegante che io, per parte mia, sono spesso scoppiata in lacrime leggendo le vostre incantevoli lettere, e non ho alcun dubbio che Mr. Barry farà qualsiasi sacrificio piuttosto di ferire i vostri sentimenti». «Credi davvero, Bridget?» disse sua signoria Lyndon. «Così la mia adorata mi compose subito una lettera. Ah, il suo stile non era mai stato più affascinante o commovente. Perché, signore, mi scriveva, mi perseguitate così? Perché avvilupparmi in una ragnatela di intrighi così terribile che il mio spirito vi sprofonda, vedendo che non c'è speranza di fuga dalle vostre terrificanti, diaboliche arti? Dicono di voi che siete generoso con gli altri, siatelo anche con me. Conosco anche troppo bene il vostro ardimento. Esercitatelo su uomini che possono affrontare la vostra spada, non su una povera donna debole che non può resistervi. Ricordatevi dell'amicizia che un tempo i professavate, e vi scongiuro, vi imploro, ora datene prova. Smentite le calunnie che avete diffuso sul mio conto e rimediate, se potete e se vi rimane un barlume di onore, alle sofferenze che avete inflitto alla straziata Honoria Lyndon. A che serviva questa lettera, se non a permettermi di rispondere di persona? La mia ottima alleata mi disse dove avrei potuto incontrare Lady Lyndon e, seguendo i suoi consigli, la trovai al Pantheon. Replicai da capo la scena già fatta a Dublino. Le mostrai che potere prodigioso avessi, umile com'ero, e come le mie energie fossero ancora in pieno vigore. Però, aggiunsi, io sono grande nel bene come nel male, affezionato e fedele come amico, quanto terribile come nemico. Io farò di tutto, dissi, tutto quello che mi chiederete, purché non mi ordiniate di non amarvi. Questo sfugge ai miei poteri. Finché mi batte il cuore, devo seguirvi. È il mio destino. È il vostro destino. Cessate di combatterlo. Siate mia. Voi siete la creatura più adorabile del vostro sesso. E solo con la mia vita può aver termine la mia passione per voi. Anzi, solo morendo per vostro comando potrò convincermi a obbedirvi. Desiderate che io muoia? Disse ridendo. Era una donna di spirito, piena di brio, che non desiderava che mi togliessi la vita. E da quel momento sentii che era mia. Esattamente un anno dopo, il 15 maggio dell'anno 1773, io ebbi l'onore e la gioia di portare all'altare Honoria, contessa di Lyndon, vedova del defunto molto onorevole Sir Charles Lyndon, cavaliere del bagno. La cerimonia fu celebrata nella chiesa di St. George, in Hanover Square, dal reverendo Samuel Rant, cappellano di sua signoria. Nella nostra casa di Berkeley Square venne offerta una splendida cena seguita da un ballo, e la mattina dopo trovai un duca, quattro conti, tre generali e una folla di personaggi più distinti di Londra. Walpole compose una satira su quelle nozze e Selwyn sfoderò le sue battute al Cocoa Tree. La vecchia Lady Tiptoff, che pure aveva raccomandato il matrimonio, era pronta a staccarsi le dita a morsi per il dispetto. Quanto al giovane Ballindon, che ormai era un ragazzone di 14 anni, quando la contessa lo invitò ad abbracciare il suo papà, lui mi scosse il pugno davanti al viso, dicendo: «Lui mio padre? Preferirei chiamare papà uno dei lacchè di vostra signoria». Ma io potevo permettermi di ridere della rabbia di quel ragazzo e di quella vecchia. Potevo anche ridermela delle battute dei begli spiriti di St. James. Mandai un esuberante resoconto delle mie nozze a mia madre e a mio zio, il buon cavaliere. E poi, ora che ero giunto all'apice della prosperità, ora che ero riuscito a 30 anni di età a elevarmi con le mie sole forze e per mio esclusivo merito a una delle più alte posizioni sociali che un uomo potesse occupare in Inghilterra, stabilii di godermela, come si addice, a un uomo di qualità per tutto il resto della mia vita. Dopo aver ricevuto le felicitazioni dei nostri amici di Londra, perché a quei tempi la gente non si vergognava di essersi sposata, come sembra che avvenga adesso, io e Honoria, che era tutta lieta di compiacermi, una compagna veramente graziosa, vivace, gradevole, partimmo per visitare i nostri possedimenti nell'Inghilterra occidentale, dove io non avevo mai messo piede. Lasciammo Londra con 3 carrozze, ciascuna tirata da 4 cavalli, e mio zio sarebbe stato molto soddisfatto di vedere dipinti sugli sportelli la corona d'Irlanda e l'antico stemma dei Berry fianco a fianco con la coroncina della contessa e il nobile emblema della nobile famiglia dei Lyndon. Prima di lasciare Londra, ottenni da Sua Maestà il grazioso permesso di aggiungere al mio nome quello della mia deliziosa signora, e da quel momento assunsi il nome e il titolo di Barry Lyndon, che io ho scritto in testa a questa autobiografia.